Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. Un'estate piena e radiosa splendeva su tutta l'Inghilterra. È raro che nel nostro paese, circondato dal mare, si vedano per tanti giorni di fila un cielo così terso, un sole così forte. Sembrava che uno stuolo di giornate italiane fosse giunto da sud, come uno stormo di maestosi uccelli migratori, e si fosse posato sulle scogliere di Albione. Il fieno era stato tutto raccolto. I campi intorno a Thornfield erano verdi e rasati, le strade bianche e riarse, gli alberi rigogliosi d'un verde carico, le siepi e i boschi carichi di un fogliame scuro si stagliavano netti sui prati schiariti dal sole. La vigilia di San Giovanni, Adele, stanca per aver passato mezza giornata a raccogliere fragole selvatiche sul sentiero di Hay, era andata a dormire quando il sole era ancora alto. La guardai addormentarsi, dopodiché scesi in giardino. I fiori del rovo e le artemisie, i gelsomini, i garofani, le rose, hanno già da un pezzo offerto il loro sacrificio serale di incensi. Questa nuova fragranza non è di pianta, né di fiore, è, lo so bene, è il sigaro di Rochester. Mi giro e mi metto in ascolto. Vedo gli alberi, carichi di frutti maturi. A mezzo miglio da lì, in un bosco, gorgheggia un usignolo. Non si scorge nessuna forma. Non si sente un passo nelle vicinanze, ma l'aroma è più forte, devo fuggire. Mi avvio verso il cancelletto che si apre sul boschetto e lo vedo entrare. Mi faccio da parte, in una rientranza coperta d'edera. Non rimarrà a lungo. Presto tornerà da dove è venuto e se rimango immobile non si accorgerà di me. E invece no, la serata è piacevole per lui come per me e questo antico giardino è un incanto. E dunque vi si inoltra, ora sollevando i rami di uva spina carichi di frutta grandi come prugne, ora accogliendo una ciliegia matura, ora chinandosi su un groviglio di fiori per annusarne il profumo o per contemplare i petali imperlati di rugiada. Adesso che mi volta le spalle, pensai, ed è tutto preso dalla farfalla, se faccio piano piano forse riesco ad andarmene alla chetichella. Lui era fermo tra le aiuole, a un paio di metri di distanza dal punto in cui dovevo passare. La farfalla a quanto pare lo assorbiva completamente. Passerò senza problemi, mi dissi. Mentre attraversavo la sua ombra, che la luna ancora bassa allungava sul giardino, lui disse tranquillamente, senza girarsi, «Jane, Thornfield è un luogo piacevole in estate, non è vero?» «Sì, signore. Vi sarete certo affezionata alla casa in qualche misura. Voi avete un occhio per la bellezza della natura». E il dono di aderire alle cose. Mi sono affezionata, sì. Eppur, se fatico a comprenderlo, sento che nutrite anche un sentimento per quell'occhietta di Adele e persino per quell'anima candida della signora Fairfax. Non è così? Sì, signore. In modi diversi provo affetto per entrambe. E vi dispiacerebbe separarvi da loro? Sì. Che peccato. Disse con un sospiro. «È sempre così nella vita», continuò. «Non facciamo in tempo a insediarci in un luogo e a trovarlo piacevole e rilassante che una voce ci sprona ad alzarci e a riprendere il cammino, perché l'ora del riposo è passata». «Devo dunque riprendere il cammino?» domandai. «Devo andarmene da Thornfield?» «Credo di sì, Jane». «Mi dispiace, Janet, ma credo davvero che dobbiate». Fu un colpo, ma non mi lasciai abbattere. «Bene, signore. Quando arriverà l'ordine di partire, sarò pronta». «Arriva ora. Devo darvelo questa sera». «Dunque state davvero per sposarvi, signore?» Esattamente, precisamente, con la vostra solita acutezza avete colpito nel segno. Presto, signore? Molto presto, cioè, signorina Eyre. E voi certo ricorderete, Jane, la prima volta che io, o le voci che corrono, vi avvertimmo in maniera chiara e inequivocabile che era mia intenzione mettere nel cappio il mio collo di vecchio scapolo per entrare nel sacro vincolo matrimoniale. Insomma, per stringermi al petto la signorina Ingram. Dunque, come dicevo, ascoltatemi, Jane. Perché girate la testa? Non cercate altre farfalle, no? Quella era solo una coccinella che segue la sua stella, bimba mia. Dunque, vorrei farvi notare che siete stata voi la prima a dirmi che se avessi sposato la signorina Ingram sarebbe stato meglio per voi e per la piccola Adele allontanarvi a sprombattuto. Tralascio il giudizio offensivo implicito nel suggerimento nei confronti della mia amata e anzi, quando sarete lontana cercherò di dimenticarmene. Janet, terrò a mente solo la saggezza del consiglio, che è tale da indurmi a metterlo in pratica. Adele deve andare in collegio e voi, signorina Eyre, dovete trovarvi un altro lavoro. Sì, signore. Metterò subito un annuncio e nel frattempo immagino di poter rimanere qui finché non avrò trovato un altro luogo dove andare. Ma mi interruppi, perché non era il caso di arrischiarmi in una frase così lunga, visto che non riuscivo più a controllare la voce. Tra un mese circa spero di essere sposato, continuò il signor Rochester. E nel frattempo vi cercherò io stesso un lavoro e un tetto. Grazie, signore. Mi dispiace darvi... Non c'è bisogno di scusarsi. Ritengo che quando una dipendente fa il suo dovere, come voi avete fatto il vostro, può ben aspettarsi che il suo datore di lavoro l'aiuti per il poco che può. In realtà, tramite la mia futura suocera, ho già avuto notizia di un posto che penso sia molto adatto a voi. Si tratta di occuparsi dell'istruzione delle 5 figlie della signora Dionysus O'Gall di Bitternut Lodge, in Irlanda. Vi piacerà l'Irlanda. Dicono che la gente abbia il cuore d'oro laggiù. È molto lontano, signore. Non importa. Una ragazza di buon senso come voi non farà certo obiezioni sul viaggio o sulla distanza. Sul viaggio no, ma sulla distanza sì, e poi il mare è una barriera. Da cosa, Jane? Dall'Inghilterra e da Thornfield e da voi, signore. Pronunciai quelle parole quasi involontariamente e senza che la mia volontà potesse impedirlo, le lacrime mi sgorgarono dagli occhi. Non piansi in modo da farmi sentire, però. Evitai di singhiozzare. Si sedette e mi fece sedere. È lontana l'Irlanda, Janet, e mi rincresce di costringere la mia piccola amica a un viaggio così faticoso. Ma... se non posso fare di meglio, come impedirlo? Voi non pensate che io e voi ci somigliamo, Jane? Non potevo certo arrischiarmi a rispondere. A quel punto il mio cuore si fermò. Perché, disse, talvolta ho una strana sensazione nei vostri riguardi. Soprattutto quando siete vicino a me come ora. È come se avessi... una cordicella da qualche parte sotto le costole a sinistra, strettamente e inestricabilmente annodata a una uguale situata nella parte corrispondente della vostra minuscola persona. E se quel braccio di mare tempestoso e 200 miglia di terra verranno a frapporsi tra noi, io temo che quella corda comune che ci lega si spezzi. E allora mi inquieta pensare che comincerò a sanguinare dentro di me. Quanto a voi, mi dimenticherete. Questo non accadrà mai, signore. Voi sapete, impossibile continuare. Jane, lo sentite questo usignolo che canta nei boschi? Ascoltate. Ascoltandolo, fui scossa da singhiozzi convulsi perché non riuscivo più a reprimere quel che provavo. Fui costretta a cedere ed ero scossa da capo a piedi da un'angoscia indicibile. Quando finalmente riuscii a parlare, fu solo per esprimere il desiderio impetuoso di non essere mai nata e di non essere mai venuta a Thornfield. Dunque vi dispiace tanto andarvene. La violenza dell'emozione, esaltata dal dolore e dall'amore che avevo dentro, reclamava la supremazia, lottava per ottenerla, rivendicando il suo diritto a imporsi su tutto, a trionfare, a vivere, a elevarsi, a regnare incontrastata, sì, e a parlare. Lasciare Thornfield mi fa soffrire, sì. Io amo Thornfield, l'amo. Perché qui ho vissuto una vita piena e meravigliosa. Nessuno mi ha calpestata, nessuno mi ha spaventata, nessuno mi ha seppellita con degli esseri inferiori o esclusa da ogni barlume di comunione con ciò che è luminoso, alto e ricco di energia. Ho parlato faccia a faccia con qualcuno che rispetto e da cui traggo piacere. Con una mente originale, vigorosa e aperta. Ho conosciuto voi, signor Rochester, e adesso sono terrorizzata e angosciata al pensiero di essere strappata da voi per sempre. Capisco la necessità di partire ed è come contemplare la necessità della morte. Dove la vedete questa necessità? Chiese lui improvvisamente. Dove? Siete stato voi, signore, a mettermela davanti. In che forma? Nella forma della signorina Ingram, una donna nobile, bellissima, la vostra sposa. La mia sposa? Quale sposa? Io non ho nessuna sposa. Ma l'avrete? Sì, l'avrò. Strinse i denti. E dunque io devo andarmene. L'avete detto anche voi? No. Dovete restare, lo giuro, e manterrò il giuramento. Devo andare, vi dico, ribattei spinta da una sorta di passione. Credete che possa rimanere senza essere più nulla per voi? Credete che sia un automa? Credete che solo perché sono povera, oscura, brutta e piccola, io non abbia un'anima e un cuore? Vi sbagliate. Ho un'anima, grande, quanto la vostra. È un cuore altrettanto grande, né più e né meno. E se Dio mi avesse fatto dono di un po' di bellezza e di molta ricchezza, avrei fatto in modo che fosse per voi altrettanto duro lasciarmi di quanto è per me lasciare voi ora. E non sono gli usi e le convenienze, e nemmeno la mia carne mortale a parlare adesso. È il mio spirito che si rivolge al vostro come se entrambe avessimo varcato la tomba. E ci trovassimo ai piedi di Dio, uguali, come siamo. Come siamo? ripeté Rochester. Così, aggiunse, richiudendomi tra le sue braccia, raccogliendomi contro il suo petto, premendo le sue labbra sulle mie. Così, Jane. Sì, così, signore, ribattei. E tuttavia è impossibile, perché voi siete un uomo sposato, o come se lo foste. Sposato con una donna che è inferiore a voi, con cui non avete alcuna affinità e che io credo non amate davvero, perché vi ho visto e sentito schernirla. Io disdegnerei un'unione del genere, perciò sono migliore di voi. Lasciatemi andare. Dove, Jane? In Irlanda? Sì, in Irlanda. Ho detto quello che penso e adesso posso andare ovunque. Calmatevi, Jane. Smettete di dibattervi in questo modo, come un uccello furibondo che si strappa le piume per la disperazione. Non sono un uccello e nessuna rete potrà intrappolarmi. Sono un essere umano libero, con una mia volontà che eserciterò ora per lasciarvi. Con un altro sforzo riuscii a liberarmi e rimasi ritta di fronte a lui. Sarà la vostra volontà a decidere del vostro destino, disse. Io offro il mio cuore, la mia mano e una parte di tutto ciò che possiedo. State recitando una farsa che mi fa soltanto ridere. Vi chiedo di attraversare la vita al mio fianco, di essere un secondo me stesso e la migliore compagna su questa terra. Per quanto riguarda il vostro destino, avete già fatto una scelta e a quella dovete attenervi. Venite a sedervi accanto a me, Jane, e proviamo a spiegarci e a capirci. Non mi siederò più accanto a voi. Sono riuscita a staccarmi e non posso tornare. Ma Jane, io vi chiedo in moglie. Solo voi intendo sposare. Non dissi nulla, pensavo che si stesse burlando di me. Venite, Jane, venite qui. C'è vostra moglie tra noi due. Si alzò e con un passo mi raggiunse. Mia moglie è qui, disse attirandomi ancora a sé, perché qui è la mia uguale, quella che mi somiglia. Jane, volete sposarmi? Ancora una volta non risposi e ancora una volta mi divincolai continuando a essere incredula. Dubitate di me, Jane? Assolutamente. Non avete fiducia in me? Neppure un briciolo. Piccola scettica, dovrete convincersi. Che amore nutro per la signorina Ingram? Nessuno, come mi sono preso la briga di dimostrare. Ho messo in giro la voce che la mia fortuna non ammonta neppure a un terzo di quanto immaginava lei. Dopodiché mi sono presentato per vedere il risultato. Un'estrema freddezza da parte sua e della madre. Io non sposerei mai la signorina Ingram. Non potrei farlo. Voi, creatura bizzarra e quasi ultraterrena. Io vi amo come la mia stessa carne. Voi, povera e oscura, piccola e brutta come siete. Io vi imploro di prendermi per marito. Come? Voi implorate me? Esclamai cominciando a credere alla sincerità delle sue parole. Tanto erano piene di passione e soprattutto di villania. Implorate me che non ho un amico al mondo a parte voi, seppure voi siete mio amico, e nemmeno un soldo se non quello che mi avete dato voi. Voi, Jane, io vi voglio. Vi voglio tutta per me. Volete essere mia? Dite di sì, presto. La faccia era molto alterata e arrossata, coi lineamenti terribilmente contratti e uno strano luccichio negli occhi. Ah, Jane, voi mi torturate, esclamò. Con quello sguardo indagatore e allo stesso tempo fedele e generoso, mi torturate. Com'è possibile? Se siete sincero e se la vostra proposta è veritiera, gli unici sentimenti che provo per voi non possono essere che di gratitudine e devozione. Come possono torturarvi? Gratitudine, esclamò, e poi aggiunse con impeto. Jane, accettate presto. Dite, Edward, chiamatemi per nome. Edward, vi sposerò. Ma siete serio? Mi amate davvero? Desiderate sinceramente che sia vostra moglie? Sì, è necessario giurarlo, perché ci crediate. Lo giuro. Allora vi sposerò, signore. Edward, mia piccola sposa. Edward, caro. Vieni qui ora, vieni da me, tutta, disse. E poi all'orecchio, nel suo tono più profondo e con la guancia premuta sulla mia, fai la mia felicità, io farò la tua. Che Dio mi perdoni, aggiunse dopo un po', e nessun uomo osi mettersi di mezzo. Adesso è mia e non la lascerò andare. Ci sposeremo in 3 settimane. Nessuno potrà mettersi di mezzo, signore. Non ho parenti che possano interferire. La pioggia cominciò a scrosciare. Lui mi spinse in fretta per il sentiero attraverso il parco e infine in casa, ma quando varcammo la soglia eravamo già fradici. Mentre mi toglieva lo scialle nell'atrio e scrollava via l'acqua dai miei capelli ormai sciolti, dal salottino sbucò la signora Fairfax. All'inizio non me ne accorsi, e nemmeno Rochester. La lampada era accesa e la pendola batté la mezzanotte. «Togliti subito i vestiti bagnati», disse lui. «Ma prima che tu vada, buonanotte». «Buonanotte, tesoro mio». Mi baciò ripetutamente. Quando alzai lo sguardo, sciogliendomi dall'abbraccio, la signora Fairfax era lì, pallida, seria e sbigottita. Mi limitai a sorriderle e corsi di sopra. Elisabetta Piccolomini ha letto Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.